Montecitorio e dintorni. Di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, benvenuti ancora a Montecitorio e dintorni. Questa volta noi andiamo nel profondo nord, nel Veneto, dove abbiamo con noi il governatore Luca Zaia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Volevamo chiedere soprattutto, la prima domanda è sul Monte dei Paschi, sul caso Anton Veneta. Lei ha promesso di restituire la banca ai veneti. Come farà? Beh, innanzitutto diciamo che al momento questo asset di MPS non è in vendita, nel senso che Anton Veneta ancora non è sul mercato. Però qualora si presentasse l'opportunità, che io ritengo non remota, sarà bene che le forze imprenditoriali del Veneto, le istituzioni e ovviamente gli istituti di credito si interroghino sull'opportunità di fare un'accordata, comunque di pensare a riportare a casa questa banca che era Veneto. Come giudica questa vicenda del Monte dei Paschi? Dove sta la colpa? C'è stato anche uno scontro tra Monti e Bersani. Guardi, ormai questa è una partita che è in mano alla magistratura, sarà la magistratura poi a chiarire fino in fondo questa vicenda. Ho l'impressione che tutta questa partita che riguarda il passato sia una partita che comunque sia riconducibile a scelte sbagliate e molto spesso magari che hanno avuto poi una ricaduta negativissima sulle cose concrete che sono quelle di dare risposta ai cittadini. Ma le scelte sbagliate chi le ha fatte? Beh, guardi, il codice civile è chiaro, se ci dovessero essere, sottolineo il se perché siamo oggi oggetto di un'indagine della magistratura, scelte sbagliate sono riconducibili poi a chi amministrava e questo deve essere chiaro fino in fondo. Allora, invece parliamo di un altro episodio che la riguarda un po' da vicino, no? Sul Corriere della Sera c'è un articolo che dice: i truffatori delle quote latte ci sono costati 4,5 miliardi di euro. E poi dicono: quando era il ministro dell'agricoltura, il leghista Luca Zaia, ha praticamente salvato chi sforava le quote latte privando Equitalia del potere di riscossione. Come risponde a questa accusa? Ma guardi, questa è veramente una visione molto riduttiva del problema. Rigetto l'accusa e do anche una spiegazione, anche se con poco tempo. Mi sono trovato di fronte a un gruppo di produttori che non pagava le multe e non aveva neanche la solidità, ma questi sono dati che mi avevano dato ovviamente gli uffici, di poter avere patrimonio per poter essere sequestrato e quindi di avere una restituzione del debito. A quel punto l'unica soluzione, a mio avviso utile e intelligente, è stata quella di avviare una rateizzazione onerosa, quindi interessi illegali, prova ne sia che l'Europa ha concordato il provvedimento, pena la messa all'asta di quello che rimaneva di queste aziende. Prova ne sia che oggi queste aziende, che le poche che non hanno rateizzato allora, andranno all'asta. A me sembra di non aver fatto nulla di illegale e nulla che non fosse incompatibile con il mandato che avevo. Anche se per esempio Albertini dice: potevamo non mettere l'IMU sulla prima casa senza le multe sulle quote latte, c'è un'esagerazione? Ma guardi, di esagerazioni noi italiani siamo abituati a vederne spesso in campagna elettorale. Vediamo persone come Albertini che parlano di quote latte e posso dire, io ho fatto il ministro per alcuni anni, non ho mai visto Albertini di occuparsi di questo. In campagna elettorale in Italia la moda è far polemica su tutto. Da un punto di vista tecnico ricordiamo che le multe pagate dall'Italia all'Europa sono le multe esattamente incassate presso i produttori, cioè non è che noi abbiamo praticato chissà quali anticipazioni. I produttori che hanno rateizzato stanno pagando la loro multa. Ricordo che a inizio anni 2000, non c'ero io, più di 15.000 produttori hanno rateizzato la loro multa con lo Stato. Parliamo invece del caso Veneto, perché la Lega è, diciamo, un po' nella tormenta, almeno secondo quello che scrive sempre il Corriere della Sera. Addirittura si spacca e i bossiani direbbero di votare PD al Senato. Risulta questo? Ma assolutamente no, e chi lo fa è fuori dalla Lega, anche perché non mi risulta che noi abbiamo alleanze con il PD, punto, non c'è altro da aggiungere. E quindi non c'è possibilità per un leghista di votare PDL alla Camera e PD al Senato? Come deve votare un leghista per il Parlamento nazionale? Ma il leghista, bene, il Parlamento nazionale vota il suo partito, che è la Lega, che è candidata sia alla Camera che al Senato. Ecco, a proposito dei vostri candidati, il capolista d'eccellenza in questo momento è Tremonti. Perché questa scelta? Si è sempre detto che Tremonti era molto legato alla Lega, poi alla fine ha fatto il salto. No, Tremonti ha un suo soggetto politico, una sua partita che si sta giocando e ha deciso di condividere questo percorso in questa fase con noi, ed è giusto che noi con molta lealtà e anche direi con molta trasparenza abbiamo scelto di farlo pubblicamente. Allora, cosa succede per esempio se Roberto Maroni vince in Lombardia? Ha già annunciato che vuole questa macro regione del nord con lei, con Cota, ma voi vi siete sentiti e sareste d'accordo di fare questa macro regione leghista al nord? Ma assolutamente sì, ma le dirò anche le motivazioni da Veneto, da governatore del Veneto. Noi abbiamo un residuo fiscale positivo, ovvero ricordiamo che il Veneto lascia 18 miliardi di euro delle proprie tasse a Roma e vengono poi impiegate per sprechi e cattiva gestione, ne abbiamo un grande esempio. Dall'altro c'è da dire che se si applicassero a livello nazionale i costi della pubblica amministrazione del Veneto a tutte le regioni, ci sarebbe un risparmio a livello nazionale di 28 miliardi di euro. Ecco, questi sono gli elementi che ci fanno dire che le tasse debbono restare sul nostro territorio, perché mandate a Roma sono decisamente investite male. Roberto Maroni ha anche detto che Monti se ne frega del nord perché il Presidente del Consiglio ha fatto una proposta di ridurre l'IRAP a partire dalle aziende del sud. Lei cosa ne pensa? Ma le dico ironicamente che le rispondo che una siringa pagata nei miei ospedali 6 centesimi viene pagata in alcune regioni del sud, sono dati del Ministero, fino a 25 centesimi. Un pasto che in Veneto ai pazienti ci costa negli ospedali un pasto circa 6,50 euro, in giro per l'Italia, soprattutto il sud, ce lo dice sempre il Ministero, arriva a costare fino a 70 euro. Quindi lei capisce che di fronte a questi dati Monti l'unica scelta che può fare è applicare i costi della pubblica amministrazione virtuosa a chi non lo è. Ecco, il Veneto viene considerata una di quelle regioni in bilico, soprattutto al Senato, poi abbiamo visto che c'è questo caso. Qualora al Senato tre regioni andassero al centrodestra e fosse impossibile avere una maggioranza, insomma, se finisse pari e patta, voi ve la sentireste come Lega di fare un governo di coalizione per fare le riforme istituzionali? Guardi, io mi occupo del Veneto e tutti sanno che non perdo il mio tempo a parlare di partite che non mi riguardano da vicino. Questa è una partita che discuterà direttamente il nostro segretario, che è Roberto Maroni. A noi oggi interessa vincere nelle nostre regioni in modo tale che la partita della macro regione diventi realtà. E poi che fate? Indite un referendum per staccarvi dall'Italia? No, poi guardi, con molta semplicità inizieremo a condividere delle strategie assieme, che è l'unica vera partita nell'alveo della democrazia e nel rispetto della Costituzione, che è stata scritta nel 1948 dai padri costituenti, che erano degli autentici federalisti, e purtroppo è stata gestita in tutti questi anni da degli autentici centralisti. Ecco, ma la secessione oramai è un ricordo bossiano? No, la secessione, guardi, rischia di essere una realtà, ma non a causa della politica, a causa del fatto che non si fanno le scelte giuste per i nostri territori. Un esempio di secessione glielo faccio subito: le 700 imprese che anche quest'anno se ne sono andate dal Veneto per insediarsi in Carinzia. Questa che cos'è? Quindi questa macro regione del nord potrebbe essere un inizio di secessione, no? Ma la macro regione del nord è assolutamente una cosa compatibile con la Costituzione e va nella direzione di dare risposte ai cittadini. Guardi, Einaudi, parlando della Costituzione, quando la presentò disse: ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che si spetta. A me non sembra che Einaudi sia stato ascoltato. Io la ringrazio, ringraziamo il governatore Luca Zaia per essere stato con noi a Montecitorio e dintorni. Io vi aspetto come al solito sabato prossimo. Grazie. Grazie mille, buongiorno a tutti. Arrivederci.